Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida in redazione e finalmente, finalmente no perché avrei preferito posticipare, però è tornato da noi l'architetto, l'ingegnere di Cantù, Bruno Arrigoni. Ciao Bruno. Neanche il baguette, è vero, però. Come neanche il baguette. Buongiorno a tutti. Lascia stare. Costa Peterson invece in viaggio, on the road, tu sei. Ciao Carlo, siamo proprio a Firenze per prendere la macchina per andare a Siena partita. Ciao Bruno, grazie per l'aiuto. Dan. Ciao. Siena con le spalle già contro il muro stasera, caro coach. A maggior ragione dopo il modo in cui ha perso. 24-9 nell'ultimo quarto, perché in queste serie così difficili da vivere anche emotivamente conta anche il modo. Guarda, loro hanno fatto per 32 minuti si era fatta una partita stupenda, ok, bisogna dirlo, cioè proprio hanno giocato con grande volontà, grande riflesso, grande esecuzione, difesa, attacco, contropiedi, hanno fatto di tutto, ok, quindi, e poi hanno avuto questa pausa, esito a dire la parola blackout quando si parla di Siena perché è difficile, loro non hanno mai queste cose qui, invece in questa partita contro loro è stato proprio così, e bisogna anche dar merito alle altre squadre che veramente ha giocato una partita di grande concentrazione per 40 minuti, grande. Messer Bruno Arrigoni, reduce dall'Eurolega, saresti sorpreso se Siena venisse eliminata dall'Olympiacos. Gara 1-0-1, sconfitta interna, ricordiamo le serie, si giocano due a Siena, poi si va due volte ad Atene ed eventuale bella a Siena. Però la prima di una serie di playoff da giocare in casa è sempre una buccia di banana. È chiaro che è sempre un'incognita. Ora, noi abbiamo visto la serie dell'anno scorso, quando Siena le prese 40 ad Atene, la prima partita, e sembrava che fosse tutto perduto, e invece con una progressione veramente spaziale e con una concentrazione veramente formidabile, ha portato a casa, ecco, il risultato. Ora, è chiaro che la prima partita è stata uno scivolone. Questa sera non hanno più niente da perdere, dovranno, sicuramente vinceranno, io credo che non ci siano dubbi su questo, e dopo io credo che Siena sia attrezzata per venirsi a giocare la quinta a casa sua, ecco. Coach, dov'è la chiave di Siena Olympiacos atto secondo? Perché è chiaro che l'Olympiacos sarà leggero stasera. Esattamente, l'Olympiacos ha preso grande fiducia, e soprattutto dove veramente hanno fatto una grande fatica, Siena è stata veramente la questione della prontezza dei riflessi dell'Olympiacos, che è andato con qualche quintetto piccolo, a Heinz che è 1,96 m, ha giocato pivot, tanto per citare di uno, e sono stati reattivi, aggressivi, proprio bravissimi in questo. Quindi, e poi Siena non può, come tutte le squadre ovviamente, non può avere una pausa, cioè pause assolutamente zero, cioè proprio non può fare una pausa di 8 minuti come è successo l'altro ieri, e poi devono avere tutti gli uomini, tutti. Lavrinovic non può avere una partita, cioè, di 0.5 palle, deve veramente giocare una grande partita lui questa sera, ma tutti, ok, tutti quanti, tutti devono giocare senza pausa e senza nessun assente. Sicuro. 800 24 00 24, naturalmente, per intervenire. Prima di farti prendere la macchina da Firenze per Siena, il tweet del coach di oggi. Sul pianeta calcio oggi è impossibile fare l'arbitro o il guardalinee, ma non è possibile usare la tecnologia. Pronto, calcio? Calcio pronto? C'è qualcuno? Costian Peterson, questo è il tuo tweet di oggi. Non mettertici anche tu con la moviola, sennò io divento matto. Io sono contrario alla pentola a pressione, come diceva qualcuno tanti anni fa, e alla moviola. Io mi stanco delle polemiche, però come ha detto qualcuno, se mette la tecnologia vendono meno giornali e meno talk show come questo. E quindi siamo tutti disoccupati. Ciao coach, grazie. Ciao, un grande saluto Bruno. Grazie. Ciao Dan, ciao. Bruno, non dirmi che anche tu vuoi la moviola. No, io sono stato contrario alla moviola, non mi è mai piaciuta. Sì, mi piaceva una volta, si vedeva così. Ma in campo no. Ecco, no, in campo no. No, non mi piace. Anche se l'Insta replay nel basket ha un suo senso. Insta replay nel basket, però è una cosa veramente... Intanto capiterà una volta a partita. Ah. Ecco, e onestamente nel calcio non vedo l'arbitro che fa 40 metri e va a una postazione televisiva. Non mi piace. Il calcio è proprio istinto primordiale. Bravo. Quello che uno vede fa, quello che uno vede fischia e poi va avanti così. Senti Bruno, perché non state giocando i playoff di Eurolega che sono in questo momento l'espressione più bella, secondo me, ne sono certo, del basket del pianeta, con l'NBA che è in stagione regolare, è il massimo che c'è, e Cantù meritava di esserci. Perché non siete neanche voi? Meritavamo noi come meritavano degli altri. Onestamente, noi quando siamo arrivati alle top 16 pensavamo di aver così fatto quello che dovevamo fare. Però ci siamo anche resi conto, soprattutto sulla spinta veramente che una spinta trainante già la vedo difficile, una spinta trainante, però sulla spinta veramente eccezionale che dà il nostro allenatore, ecco, si è tirato tutti quanti a crederci, a credere a tutte le partite, ecco, poi alla fine siamo usciti per un punto. Ho rivisto per caso la settimana scorsa la partita con il Barcellona in casa, e quando siamo andati 58-50, finito 52-50 per loro il terzo quarto, siamo andati 58-52 per noi, ho detto orca bestia, taci che la portiamo a casa, e dopo ci sarebbe stata ancora la partita di Kaunas, sì, da vincere, ecco, e quel momento lì, ecco, però ho detto taci che vinciamo. Poi invece siamo impiantati lì un momento sulle gambe, e questi sono venuti a prenderci, e dopo la fine è stata tutta una cosa così un po' strana. Ecco, il fallo su Navarro, il fallo non fischiato su Basile, che onestamente rivisto non mi sembrava poi questo grave errore dell'arbitro. Sì, poteva stare una chiamata. Sai anche tu che a parti invertite su Navarro, sì, magari, però, diciamo, ieri sera abbiamo visto come il Panathinaikos ha lasciato lì la partita. Ecco, su questo tiro dove forse c'è stato un eccesso di furbizia da parte del giocatore Panathinaikos, e l'arbitro non ha voluto farsi tirare dentro. Ecco, però abbiamo visto che insomma poi non capitano solo a noi, capitano anche agli altri. Sì, certo, ecco. Però vedi il Maccabi che hai battuto e con cui te la sei giocata anche in casa loro, che è in piena corsa, che fa 1-1 sul campo del Panathinaikos a Oaka, e credo che un po' di qualche rimpianto abbiamo dimostrato grande mentalità, grande presenza mentale e tecnica, forse con qualche handicap fisico, ecco, rispetto alla media delle partecipanti, però sicuramente non abbiamo sfigurato. No, ecco, ma infatti siete diventata la squadra più trasversale del basket, ecco, italiano, sembra che tutti facciano il tifo per voi. Palla spicchi. Ecco che torniamo, sempre con me Bruno Arrigoni, Deus Ex Machina, ne ho inventato un'altra, della Bennett Cantù. C'è chi scrive: Brunetto, lo vinciamo lo scudetto? Un messaggio questo, forza Cantù. Mi sembra molto difficile. Quanti punti è costata a Cantù il viaggio meraviglioso in Eurolega, Bruno? Noi qualche partita l'abbiamo lasciata lì sicuro, ecco, perché recuperare energie mentali, energie fisiche non è proprio semplicissimo. Diciamo che l'obiettivo nostro in Coppa era quello di far vedere che non eravamo lì per caso, e l'abbiamo dimostrato. Adesso la cosa più difficile diventa ritornarci, ecco, perché per ritornarci bisognerebbe arrivare in finale, bisognerebbe perlomeno. E non è una cosa, proprio una passeggiata di salute. Noi a qualche punto l'abbiamo lasciato lì, ecco, ed è per questo che in questo momento noi siamo in una salita irta e difficile. Abbiamo vinto 4 partite in fila in campionato, questo sicuramente ci ha fortificato, e anche se abbiamo lasciato qualche morto e qualche ferito per la strada, sì, perché Basile e Cinciarini li abbiamo lasciati lì. Sì. Ecco, la sconfitta di Pesaro è chiaro che non ci ha rallegrato, ecco, perché abbiamo interrotto un cammino. Noi non possiamo permetterci grandi passi falsi, anche perché abbiamo un calendario impegnativo. Abbiamo Siena in casa, abbiamo Milano fuori, all'ultimo andiamo a Bologna, ecco, dobbiamo ancora riposare, per cui insomma il calendario non è facile. Abbiamo le nostre concorrenti diciamo così, al secondo, terzo, quarto posto, sono parte. Sono delle squadre estremamente attrezzate, motivate, già con una bella pallacanestro e hanno un calendario un po' più facile del nostro. 800 24 0024 è il numero verde per intervenire se volete, per parlare soprattutto con Bruno Arrigoni. C'è chi scrive: sono un tecnico Rai che fa il basket, si chiama Roberto, fa il basket la domenica su Rai Sport 1. Questo sport è bellissimo anche per la gente che frequenta lo studio, allenatore, atleti alla mano, è disponibile anche a farsi fotografare per ricordo. Questi messaggi invece su Siena: peccato che le partite durano 40 minuti, riferito a gara 1 con l'Olympiakos. Siena dell'anno scorso era molto più forte. Oppure un altro ascoltatore: Siena è alla frutta, come giudicate gente come Lavrinovic, Thornton, Stonrook? Non condivido quanto scrive dopo l'ascoltatore: viziati, strapagati, neanche capaci di stare in piedi oramai. Questo mi sembra, questo sì, mi sembra ingeneroso, ingeneroso e anche eccessivo. È sbagliato. fondamentalmente sbagliato. Bruno, mi racconti qualche episodio, qualche aneddoto di questa, di questo inverno passato sulle strade dell'Europa Maggiore? Quali momenti ti sono rimasti i più belli, i più curiosi? Che ne diciamo so? Che io sono tornato a Tel Aviv con veramente con grande emozione, perché io c'ero stato la prima volta nel 73 con la Ignis, sì. E noi entravamo in albergo e usciva Mosè Dayan con la benda sull'occhio. Sì. Adesso qui probabilmente la maggior parte di quelli che ci ascoltano non sanno neanche chi è Mosè Dayan, però era... Sì. Sarebbero un po' ignoranti in materia di storia. E questa cosa mi aveva colpito tantissimo, e lì allora era appena finita la guerra del Sinai, e ai bordi del campo c'erano tutte le barelle con tutti i feriti, così, e il presidente del Maccabi, che è sempre lo stesso che c'è adesso, era un giovane ufficiale, era lì in divisa, che torna tutto impettito, che tornava da questa cosa qua, mi aveva colpito. Allora tornare a Tel Aviv mi ha dato una grande emozione, perché veramente a Tel Aviv si vive un bellissimo ambiente, sì. Un bellissimo clima. Poi mi sono piaciute le due vittorie fuori casa, aver vinto a Bilbao, è stata una bellissima soddisfazione, e poi soprattutto aver vinto a Kaunas, dopo che ormai noi non abbiamo proprio niente più da dire, però il ragazzo ha mostrato veramente grande orgoglio, sì. Davanti a 9-10 mila persone, e con questi qua che assolutamente poi in casa loro non volevano perdere, e lì mi ha dato veramente una bellissima prova di carattere, di serietà professionale, di attaccamento. Beh, era giusto chiudere così, insomma. Sì, è stato veramente molto bello. Chiudere così con una vittoria è stato veramente molto bello. Abbiamo un ascoltatore che chiama dalla Svizzera. Porca. Non lontano da Cantù, però. Oscar, buongiorno. Sì, buongiorno, grandissimo Bruno. Sono un tifoso di Cantù nel basket da tanto tempo. Attraversa quindi la frontiera per andare a Cantù? Sì, sempre. Spesso. Ho visto la partita con la Scavolini l'altra sera. Brutta sconfitta, meritata tra l'altro secondo me. Mi sembra che la squadra sia un attimino sulle ginocchia, un po' per gli infortuni e un po' perché forse sta tirando il fiato. Quello che volevo chiedere, se è possibile, è fino a quando riusciremo a tenerci Trinchieri attaccato, visto che secondo me sta cominciando a diventare veramente appetibile anche per grandi club. Quando torna Šekić? E se l'anno prossimo potremo contare ancora su un roster come quello di quest'anno, che secondo me, tolta Siena e Milano, è comunque di tutto rispetto e, come ha dimostrato in Eurolega, può fare la sua bella figura. Tre domandoni. Allora, Trinchieri ha ancora 2 anni di contratto, e non credo che lui, certo che uno è ambisce alle posizioni migliori, però credo che lui abbia ancora 2 anni di contratto, è un allenatore giovane, per cui ha un percorso tecnico professionale che può andare avanti negli anni, e credo che stare a Cantù non possa altro che fargli bene. Sicuro. Uno, ecco. E secondo, quello che guarda Šekić, diciamo che i suoi progressi nel recupero sono costanti e giornalieri. Ora noi speriamo che di arrivare alla fine, non so, la stagione regolare, e che lui possa mettere il piede in campo, però onestamente è molto vicina alla fine della stagione regolare, perché poi alla fine arriviamo ai primi di maggio e speriamo di rivederlo, ecco. E per quello che riguarda il roster, noi abbiamo un sacco di biennali, per quello che possono valere chiaramente, che molti hanno delle uscite, così. Ma abbiamo un sacco di giocatori sotto contratto. Diciamo che adesso uno degli obiettivi è quello di riconfermare Shermadini. Ecco, quello che riguarda Perkins, vedremo, mi sembra un po' prematuro. Perché lui è arrivato adesso, onestamente non è neanche in questa grandissima condizione, la condizione la sta trovando giorno per giorno. Ecco, quando arriveremo in fondo vedremo se a lui è piaciuto stare a Cantù soprattutto, e se a Cantù è piaciuto Perkins. Ma noi crediamo che il giocatore sia un giocatore importante per noi anche come tipologia di giocatore, un giocatore che ci può aggiungere molto. Ecco, e credo che l'obiettivo primario oggi sia vedere se riusciamo a tenersi Shermadini, ecco, che è stata un po' la sorpresa. E poi mettere in ghiaccio i vecchioni appena finisce il campionato, si prendono, si mettono nel freezer e si tirano fuori a settembre. Ibernati. Marco da Firenze. Sì, buonasera. Buonasera. Tanto, volevo commentare con voi la partita di Siena. Sono rimasto un po' deluso da Siena, specialmente nell'ultimo quarto. Mi è sembrato che sia stata caricata un po' troppo sulle spalle di Andersen la squadra, che pure lui è bravissimo. E diciamo, in quel momento lì, nell'ultimo quarto, mi è sembrato che i Grecia abbiano cominciato a essere veramente una squadra e a difendere benissimo, mentre Monte dei Paschi si è disunita, non ha più difeso. E poi volevo sapere se anche a voi piace Stone Rock, che a me sembra veramente tatticamente molto molto bravo. Ecco, volevo un commento. Stone Rock mi sembra inutile da commentare, visto che che Bruno Arrigoni l'ha avuto come giocatore, anzi è andato a prenderlo lui per Cantù. E da anni è il totem di Siena, per chi ci capisce di pallacanestro. Quanto alla sconfitta in sé di Siena, dicevo, Bruno, in queste partite, in queste sfide così emotive, conta anche il modo, e non ha perso in una bella maniera Siena. Allora, non l'ho vista perché noi stavamo giocando le nostre normali, stavamo giocando a Pesaro, però da quello che ho potuto vedere, perché poi qualcosa ho visto, questi due Olimpiaco sono stati proprio bravi, sì. Loro come le formichine, in silenzio, tomo tomo, cacchio cacchio, come diceva Totò, a un certo punto si sono trovati avanti e questi si sono veramente persi, perché l'Olimpiaco è stato avanti in 7-8 punti senza farsi accorgere da nessuno. E quando nel momento in cui Siena si è diciamo capacitata, che al momento è diventato veramente difficile, non hanno avuto diciamo la forza reattiva per poterli andare a prendere. Secondo me sono stati molto molto più bravi i giocatori dell'Olympiakos rispetto ai demeriti di Siena, di come sono stati deficitari quelli di Siena. Palla spicchi. Torniamo in studio, sempre qui con me Bruno Arrigoni. Vediamo se ne trovo un'altra. L'inventore di Cantù. L'inventore. C'era forse anche prima. Ma poi l'ho detto anche prima, quindi mi sono perfino ripetuto. Non lo so, mi sono arreso con le definizioni. Proviamo con gli ascoltatori. Allora, Duilio da Bologna. Pronto? Pronto, buongiorno, dica. Buongiorno, telefono da Bologna, Basket City, almeno fino ex a poco tempo fa eravamo Basket City. Ex. Io mi sono innamorato della pallacanestro negli anni 70, perché andai a vedere una partita della Fortitudo, si chiamava El Dorado, e da allora c'è un grande amore per questo sport. Ecco, l'unica cosa che mi chiedo, volevo appunto chiedere alla Arrigoni, che è un grandissimo tecnico, se questo tiro da tre ha completamente snaturato questo sport. Cioè, io faccio un po' fatica, visto che ho visto tanto pallacanestro senza tiro da tre, a vedere quello di oggi. Sì. Che mi sembra uno sport che non ha niente a che fare con quello con cui io sono cresciuto. Però, sì, Duilio, però adesso Bruno Arrigoni, che lei giustamente sottolinea, è un allenatore, e questo uno dei grandi segreti, è un allenatore di primo livello, è una polemica un po' retrodatata, visto che il tiro da tre è dall'86, se non ricordo male. Certamente è un gioco diverso questo, ma non solo per il tiro da tre punti, Bruno. Ma sicuramente, però bisogna dire questo, che la pallacanestro è uno degli sport che nel tempo ha cercato di evolversi sempre, cambiando l'area, cambiando un sacco le regole, ecco, e io credo che il tiro da tre sia così, e poi è chiaro che ci sono delle situazioni dove diventa solo un fatto balistico, ecco, chiaro che non bisogna abusare del tiro da tre, però ci sono molte situazioni tecniche che sono venute a creare che se così che che ci hanno permesso di così di sviluppare il nostro gioco. Ora, per esempio, tutti parlano di questo abuso del pick and roll, è vero, però una volta il pick and roll si faceva solo perché questo qua si buttava dentro, arrivava fino in fondo a tirare, e poi si faceva perché quello che il bloccante rollava a canestro, dopodiché il rollante, quello che rollava anziché andare a canestro, si apriva per tirare. Adesso invece dal pick and roll ci sono delle situazioni, si creano molto più articolate e quindi è diventato molto più difficile aiutare, è diventato, io credo che il tiro da tre sia una cosa importante, perché soprattutto dal pick and roll si creano delle situazioni tattiche anche interessanti, ecco, ottimali. Credo che la pallacanestro è uno sport che si sviluppa, ed è il suo bello, come è bello il calcio che non si sviluppa mai invece, che è sempre quello. Monza, Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare tre brevi domande al genio Arrigoni. Genio mi mancava. Caffè pagato. Visto che tutto quello che tocca diventa oro. Caffè pagato. E poi lo ringrazio perché per qualche mese Basket City è diventata anche Desio. Sì. Ho anche la fortuna di essere canturino. Allora, la prima domanda è se è vero che la società sta prendendo accordi col comune di Desio appunto per giocare anche i playoff. La seconda, se è vero che finalmente hanno ripreso a costruire il nuovo palazzo a Cantù. E la terza è un po' più, diciamo, una piccola punzecchiatura per Olimpia Milano. Da 1 a 10, visto i risultati che Trinchieri sta ottenendo a Cantù, quanto Milano si sta mangiando le mani per non aver avuto fiducia in lui quando appunto lui è venuto da noi, è andato via. Partiamo dal fondo. Io credo che Trinchieri, quando se n'è andato via da Milano, è andato via a metà dell'anno, se n'è andato via, ecco, perché avevano cambiato l'allenatore e lui si presumeva che affidasse a lui la conduzione della squadra, e invece Gino Natali chiamò Roberto Carmenati, e allora Trinchieri se ne andò a metà dell'anno. Io credo, questo qui è un problema dell'Olimpia Milano, è un problema di Trinchieri, non è un problema mio. Ripeto quello che ho detto prima: lui ha 3 anni di contratto, c'erano ancora due con noi, non credo ci siano i modi e le possibilità per. Per quello che riguarda il palazzetto dello sport nuovo, ci sono delle ruspe, sono gli operai, ci stanno facendo tutte le loro rilevazioni telemetriche. Io credo che abbiano cominciato e poi dopo finiranno. Per quello che riguarda i playoff a Desio, credo che molto probabilmente noi giocheremo il 12 aprile a Desio con Siena. Ecco, guarda, i playoff sì, se ne sente parlare, però questa è una cosa appunto che è compito della nostra proprietà, compito dell'amministratore delegato ingegner Luca Ortman. Io credo che il regalo bello l'abbiano fatto veramente Anna Cremascoli, portando la squadra ad Esio per l'Eurolega, perché veramente è stato un bello spettacolo. Quindi per i playoff vedremo, non sarà semplicissimo, perché bisogna attrezzarsi bene per far tutto. Però credo che insomma noi Desio ci siamo trovati bene, abbiamo avuto bei risultati, la cornice è veramente bella, ecco, però il pianello è pianella, ecco. Sì, lo so perfettamente. Senti, adesso ti faccio sentire una rubrica in cui sei anche stato citato da Gian Maria Vacirca, che credo ti piacerà. Basket Chef si chiama. Basket Chef. Il Master Chef della Juve Caserta è il caso della settimana. Ne parlano tutti e gli amici bianconeri sono destinati a fare scuola. Chissà, magari a inventare un format, perché l'abbinamento cucina sportivi, in mezzo a tutti quelli che ci siamo goduti negli ultimi anni, ancora non ha avuto qualcosa di concreto. E ve lo diciamo mentre Maresca festeggia la vittoria contro Stipanovic nel primo quarto di finale della competizione a contorno delle tante iniziative che Caserta sta promuovendo per raccogliere fondi utili per presente e soprattutto futuro. Giuliano ha vinto di misura con una cotoletta contro un Crazy Chicken, lavorando meglio i prodotti contenuti nella Mystery Box. Ma è una soddisfazione unica, una vittoria che sogno da quando ero bambino. Quindi this is discriminazione. Discrimination. Cosa io croato? Ricorrerà al TAR. È una gara che ci esalta. Non ci perderemo la finale per nulla al mondo. Giocatori, cucine, marketing, idee potrebbero rappresentare una risposta a una delle tante domande messe sul tavolo della discussione al convegno ospitato dalla Junior Casale lunedì scorso. Basket e crisi. Tanti problemi, è vero, ma anche grandi opportunità. E visto che noi siamo quello che mangiamo, la raccolta fondi attraverso cene invito, cene di gala e cene con i tifosi è uno strumento super utilizzato nei college americani per attingere donazioni e finanziamenti. E la creazione di aree di ospitalità di livello per fare merenda nell'intervallo e cena dopo la partita è un sistema di grande attrattività per sponsors vecchi e nuovi, che lì possono incontrarsi, fare affari e creare nuove opportunità conoscendo potenziali partners e clienti. Le aree ospitalità del nostro basket oggi sono povere, vanno potenziate, bisogna investirci soldi e creatività, proponendo dei piatti, grandi vini e i giocatori a disposizione degli ospiti per una foto, un autografo, un momento conviviale. Insomma, amici dirigenti, datevi da fare. In cucine siamo i primi al mondo e presi per la gola si possono trovare nuovi investitori. Intanto Milano fa visita a Cremona, città di torrone, mostarde e bolliti, ma anche di, udite udite, un Madison Square Garden dentro un agriturismo. Sì, avete sentito bene. Il patron Vanoli è proprietario di una struttura nella Bassa, dove da anni la squadra dell'Artiglio Caia apre e chiude le stagioni. Oltre al ristorante ci sono il Maneggio Cavalli e il Gambisa Stadium, un piccolo palazzetto costruito circa 2 anni fa, dove la squadra ogni tanto abbina allenamenti e buona cucina. Una cosa serissima, c'è il parquet dappertutto, gli spogliatoi e i tabelloni. Complimenti davvero. E allora mamma, tutta la pasta! Non è male l'idea di Vacirca, Bruno? Cucinate tu e Trinchieri, che siete due che ci capite. Io mangio bene, si vede, ecco, però non sono capace neanche di sbucciare una mela e faccio fatica a accendere il gas. Ma il Trinca, ecco, però... Io Rovi c'è lui, vabbè, ma lui è... siamo già su livelli ultra professionali, ecco. No. Però può non essere male, no? Questa idea Trinca però ha fatto delle cene, ha preparato. Io ho fatto fatica a accendere il gas e rischio delle esplosioni ogni tanto, per cui mi astengo. Nicola, provincia di Bari. Carissimi, Nicola, grazie di Bari. A voi. Sì, Nicola di Bari. Nicola, proprio di, così. Bari. Nicola di Bari. Sì, dunque, bellissimo questo spot proprio per la diffusione del basket e il reperimento degli sponsor. Ma io volevo invece porvi un quesito serio. Prego. Non che voi stiate scherzando, ma visto che c'è Rigoni, sì. Se avete letto per caso la mail che ha inviato Valerio Bianchini, un po' e sta correndo sul web. Praticamente Valerio Bianchini ha gettato una provocazione, cioè su quello che è il nostro movimento oggi, pieno di ragazzi importati o dall'Argentina o extracomunitari e italiani di livello che latitano. La nostra squadra nazionale che per l'ennesima volta non arriva alle Olimpiadi e tutto quanto il nostro movimento che è povero. E volevo avere il parere da parte di Arrigoni, che allena da tanti anni, che ne ha viste di tutti i colori, e capire quanto vantaggio abbia portato al nostro movimento l'idea geniale dei famosi parametri che stanno dissanguando le piccole società e il motivo per il quale noi non riusciamo a rendere i campionati minori, quali la Serie D e le Serie C, dove sono ammessi addirittura due stranieri, che è una vergogna delle vergogne, invece di renderli under 19, come dovrebbero essere. Guardi, qui si apriamo il lungo capitolo all'impressione della riforma dei campionati e poi torneremo anche su quanto citato prima en passant da Gian Maria Vacirca, cioè questa tavola rotonda che c'è stata a Casale Monferrato, che qui i temi sono tanti e scottanti, non riguardano solo gli stranieri che possono giocare in Serie C, sono temi molto più ampi, Bruno. Ma mi sembra, cioè, come una volta alla finale di Coppa Italia, quando Balotelli buttò per terra la maglietta, allora andarono da Stankovic e gli chiesero: ma cosa dice di Balotelli? Lui rispose: quanto tempo abbiamo? Ecco, e qui è la stessa cosa, lui ci vorrebbe qualche settimana e non basterebbe. Posso solo dire una cosa, quello che guarda questi tanto vituperati parametri. I parametri sono bassi per quelli che li devono incassare e sono alti per quelli che devono pagare. Allora lì è un problema difficile, perché il parametro che adesso le società vengono a pagare per i giocatori svincolati dovrebbe essere una sorta di prestito, anziché pagare un cartellino a una società che ha allevato il giocatore. Praticamente gli viene dato ogni anno un affitto annuo e alla fine della carriera questo dovrebbe essere come il cartellino che una volta si pagava quando si comprava un giocatore. Ecco, quando allenavo, negli anni 70-80, si pigliavano i giocatori in prestito e una volta c'era il cartellino, il prezzo del prestito di un giocatore in generale si diceva che era il 20% del del valore del cartellino. Per cui c'era un giro di soldi molto importante, c'era. Poi chi vendeva il cartellino si prendeva i soldi, poi lo reinvestiva per la maggior parte andando a cercare giocatori. Oggi tutto questo non si può più fare, e le società che creano i giocatori non se li possono perdere, non c'è, il giocatore è svincolato, e si è pensato di sostituire al valore del cartello, al prezzo del cartellino, una specie di affitto annuale che ogni anno è così. Allora naturalmente questo affitto, per chi lo deve pagare, è una tassa esosa, però onestamente per quelli che invece mandano in giro il giocatore, dice: ma io preferisco prendere, non so, 50.000 euro subito, certo, che prendere 5.000 euro all'anno, forse, perché questo qua si rompe dopo, e magari non gioca più, ecco. Per cui questo è un problema annoso, e il problema vero è che lo svincolo ha presentato una serie di problematiche. Di problematiche che non sono facili da affrontare. La cosa migliore è che tutte le società minori si facessero i giocatori in casa, così non devono prendere i giocatori degli altri, non devono pagare niente. Bravo. Ecco. La soluzione finale è questa. Palla spicchi. Allora Bruno, prima hai sentito citato da Gian Maria Vacerca questa tavola rotonda che c'è stata a Casale Monferrato: crisi economica, minaccia, opportunità per il basket. Moderatore era mio amico Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Come ne sei tornato? Cosa ne hai tratto da questa serata? Ma intanto ne abbiamo tratto l'indicazione che ci sono stati più di 12.000 contatti unici su internet per seguire lo streaming. Evidentemente questa pallacanestro in qualche maniera qualcuno deve interessare. Questa così è la prima battuta che mi viene di getto. La seconda è che anche la partecipazione lì al palazzo, nonostante la temperatura fosse un po' artica, era tangibile. Adesso si tratterebbe poi di tradurre il tutto in pratica, ho paura che lì ci sia qualche asino che tende un po' a scivolare. Minaccia opportunità, potrebbe essere un'opportunità, Bruno, per trasformare questo in opportunità, magari per fare un po' di pulizia, perché ci sono troppe società in questa pallacanestro in difficoltà conclamate. Beh, sicuro che la passione, la voglia di far bene, la voglia di avere i risultati, la voglia di così di avere una squadra di pallacanestro di un certo livello, chiaro, magari porta anche a fare qualche, diciamo così, errore amministrativo, diciamo. Ecco, o a non guardare troppo quello che è la buona amministrazione, ecco, perché tutti vogliono far bene, e la maggior parte pensa che se uno avrà dei buoni risultati sarà più facile reperire delle risorse. In un regime invece di ristrettezza, e quindi probabilmente di non buoni di risultati mediocri, sarà più difficile trovare delle risorse. Io non credo che ci siano una categoria di persone votate al suicidio o dei fan del fallimento in giro. Credo che tutti cerchino di fare bene, cercano, però è chiaro che un po' la situazione economica non è quella che permette più di avere contributi dai comuni, dalle istituzioni. Anche la legge sulle sponsorizzazioni non ha certo favorito il proliferare delle sponsorizzazioni, e la crisi economica in certi campi economici la prima cosa che ha portato a tagliare è stata la comunicazione, anche se i tecnici dicono che anzi nei momenti di crisi economica è chi fa meglio la comunicazione e quelli che dopo hanno i migliori risultati. Forse la pallacanestro non è ancora considerata o non è più considerata un veicolo importantissimo di comunicazione, però in un momento difficile è chiaro che la gente deve aguzzare l'ingegno. Ecco, noi prima abbiamo sentito Gian Maria Vacerca è sicuramente uno dei personaggi più creativi, più fervidi, pieni di iniziative, ma non lo fa così in maniera impalpabile, lo fa sulla sostanza. Quando lui fa una bella area hospitality dove invita tutti gli sponsor, poi questo probabilmente porterà altra gente a venire a seguire, a portare risorse alla società, e quindi lui lo fa con un preciso obiettivo. Certo. Certo. Ecco, bisogna avere un po' di fantasia. Bisogna avere un po' di fantasia. Ecco, noi abbiamo perso l'altra settimana, forse l'uomo che dal punto di vista creativo è stato forse il più grande personaggio degli ultimi 20 anni della presa italiana, che è Enzo Lefebvre. Ecco, Enzo era un uomo che aveva una capacità di coinvolgere le persone, gli enti, le istituzioni, le aziende, e sempre con propositività nuove. Ecco, è chiaro che bisogna avere delle persone come Enzo Lefebvre in grande, Gian Maria Vacirca, non me ne voglia, al momento in piccolo, al confronto, ecco, che portino ogni che possono giorno portare delle idee. Il rigore amministrativo da solo non basta. Ecco, perché il rigore amministrativo, sì, poi dopo è chiaro, uno potrà avere i conti in ordine, ma se dopo vince poco, dopo deve affrontare anche, diciamo così, il suo sociale, sì, deve affrontare. Diciamo che l'idea è quella di raggiungere entrambi gli obiettivi, ecco. Squadre che funzionano con i conti in ordine, mi sembra che siamo abbastanza distanti dalla soluzione. Flavio, invece, playoff di Eurolega, la sconfitta di Siena e aggiungerei l'1-1 del Maccabi di ieri a Oaca, mi sembra siano già due grandi, per quanto riguarda Siena è una notizia che speriamo venga raddrizzata questa sera, per quanto riguarda il Maccabi invece un grande risultato. Sì, per il Maccabi un grande risultato in una serie di altissimo livello, direi che Panathinaikos potrebbe benissimo andare a Tel Aviv e vincere due partite, non dico che lo farà, non credo che lo farà, ma tutti i mezzi per vincere due partite lì, però li ha anche il Maccabi. Credo che sia una serie in cui la quinta eventuale partita darebbe invece al Panathinaikos un minimo di vantaggio in partenza. Siena Olympiacos è una serie lunghissima, però invece lì, se si dovesse andare alla quinta, secondo me sarebbero veramente 50,00 per una e 50,00 per l'altra. Sono due squadre che hanno dei punti in comune e l'Olympiacos di quest'anno, che ha probabilmente un quinto su un foglio di carta, se non un settimo, del talento di quello dell'anno scorso, è tre volte più compatto e un po' più lungo in termini di giocatori che possono cambiarti la partita. Quindi non ti ha sorpreso più di tanto questo 0-1? No, onestamente no, però non credo che Siena vincerà 3-1, ma penso che Siena sia ancora favorita nella serie, di poco, di meno rispetto alla partenza, ma ancora favorita. Sentiamo domenica sera e ne parliamo. Grazie Flavio. Un abbraccio. Ciao. Ciao, grazie Flavio Tranquillo. Io invece chiudo con Bruno Arrigoni facendogli il domandone: quanto ci credete in questo scudetto? No, perché Scariolo ha già cominciato a buttare i sassi nello stagno, ad agitare le acque dei rapporti tra Milano e Siena, con polemiche da questi microfoni, con la diatriba sul doppio ruolo, doppio incarico, CT, allenatore di squadra. Voi vi astenete da questo gioco? Noi cerchiamo di andare sul campo, anche perché insomma noi mediaticamente, anche se il nostro allenatore è un eccellente comunicatore, ecco, però non andiamo ad infilare la testa in un cul-de-sac dal quale non sappiamo poi come tirarla fuori. Ecco, noi vediamo, prima di tutto è chiaro che il nostro obiettivo è quello di tornare a fare la finale, certo, perché il nostro obiettivo è quello di tornare in Eurolega. È stato così bello che voi che noi, cioè, non vogliamo rinunciarci, però in questo momento abbiamo delle altre priorità che guardare così certo, avanti. Ecco, le nostre priorità sono rimettere in piedi tutti i giocatori al meglio e due, vincere tutte quelle partite che ci possono far recuperare il terreno che un po' abbiamo perso. Sì, quindi avete priorità contingenti, poi vediamo se si attacca, poi dopo vediamo. Ecco. Bruno, grazie. Grazie a voi, davvero un piacere. Torna presto. Speriamo. Tanto abbiamo fatto il tifo per te in Eurolega, quindi come se fossi stato qua un sacco di volte. Vi ringraziamo. Grazie a Bruno Arrigoni, grazie a Franco Piantanida in redazione. Ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 5. Buona giornata.